che qua ce ne fanno il panico. Hanno creato il gruppo Anticalibro. E mo, come minimo me in panico. Forse il problema è che non siete del mio stesso calibro. A me de voi non me ne frega proprio. Siete tutti uno proprio, non provo manco odio. Siete caduti talmente in basso che per salire sul marciapiede ve devo prendere in braccio. Au! L'invidia ve se magna vivi. State sul cazzo, preservativi. E vi ammazzate per i primi tiri. State troppo indietro, primitivi. Faccio rap sulla trap, buon fan club su WhatsApp, bla bla bla. Più parlate più me scappa da sbratta. Oltre che avete torto, negate pure il saluto. Ogni volta che vi incontro mi sale lo sputo. Sono un anti calibro, un anti calibro, un anti patico, un anti calibro. Sono un anti calibro, un anti patico, un anti calibro. Sono un anti calibro, un anti calibro, un anti calibro. Sono un anti calibro, un anti patico, un anti calibro. Vuoi essere come loro? Dai, che tu mettiti in lista insieme alla gente più falsa delle notizie di alta vista. Scrivo un testo sulla tazza e dopo una mezz'oretta guardo dentro e cosa trovo? Trovo a voi pezzi di merda. Comunque vi ringrazio, siete la mia ispirazione. Grazie a voi teste di cazzo se ho scritto sta canzone. Consiglio un suicidio, prendete un bel cappio. Vi vedo piccoli e ridicoli, Giuseppe Sapio. Vi faccio pure le magliette, sì! Poi non mi dite che non sono un fra. E contattatemi se le volete, 33381. Ma non riavrete mai la vostra dignità. Faccio rap sulla trap, buon fan club su WhatsApp, bla bla bla. Più parlate più me scappa da sbratta. Complimenti, avete messo bravi su proprio un bel teatrino. Se passate da me vi autografo il pannolino. Sono un anti calibro, un anti calibro, un anti patico, un anti calibro. Sono un anti calibro, un anti patico, un anti calibro. Sono un anti calibro, un anti calibro, un anti calibro. Sono un anti calibro, un anti patico, un anti calibro.